Comunicazione multimediale 23 gennaio. Allora, per chiudere le varie discussioni che abbiamo iniziato sul linguaggio, ci occupiamo oggi di una questione che in realtà, vedremo, non è così bizzarra o così strana come la pongono questi due autori, partendo da un libro di Antonino Pennisi e Alessandra Falzone che si chiama Il prezzo del linguaggio, che è uscito lo scorso anno dal Mulino in Italia. Questo libro riprende, come altri libri pubblicati in questo periodo, un dibattito molto acceso e molto, non so come dire, accanito, insomma, molto, che va molto in, come dire, profondità sulla genesi del linguaggio, cioè diciamo sulla base biologica del linguaggio, ma e anche sulle conseguenze, diciamo, del carattere linguistico degli esseri umani per gli esseri umani stessi, cioè per noi, insomma, per la nostra specie, per la specie Homo sapiens. Allora, come dire, i problemi sono due, distinti ma collegati, che affronta questo libro, che, ripeto, fa eco, cioè è un libro italiano, però tiene conto di un dibattito che è prevalentemente internazionale, su cui, però insomma, qualche studioso italiano c'è. Questi due insegnano filosofia del linguaggio, psicobiologia del linguaggio all'Università di Messina, questi due signori. Ne sono usciti degli altri libri, ma questo mi pare quello di cui voglio parlare, perché è quello che sembra apparentemente più sconvolgente, insomma, dal punto di vista delle implicazioni. Allora, i problemi, dicevo, sono due. Allora, uno è, come dire, il carattere biologico del linguaggio. Cioè, che cosa vuol dire il carattere biologico? Vuol dire, il linguaggio deve essere considerato, naturalmente, a meno che non ci mettiamo in una prospettiva apertamente spiritualista e, insomma, dualista, diciamo, vabbè, il linguaggio è un dono che ci ha fatto non si sa chi, Dio, potrebbe anche essere la natura, insomma, non è che non ci vuole Dio per forza, ma insomma qualcosa di simile a Dio, insomma, e che si basa certamente su delle caratteristiche materiali del nostro corpo, però è un'altra cosa, però ha una dimensione superiore, una dimensione spirituale. Allora, è chiaro che io non è questa la mia prospettiva, e ovviamente non può essere questa la prospettiva di nessuno scienziato, cioè di nessuno che fa studi scientifici su questa questione qua. Noi siamo una specie animale su questo pianeta, se parliamo è evidente che parliamo in virtù di due cose, cioè di una certa attrezzatura biologica che abbiamo, che ci consente di parlare, quindi che ci consente di emettere dei suoni sufficientemente articolati, differenziati e distinguibili da poter funzionare come base di un sistema di espressione o di comunicazione, adesso vediamo. Allora, quindi da un lato è questo, dall'altro questa caratteristica particolare, certamente specifica degli esseri umani, è ovvio che siamo l'unica specie animale che parla. E come dire, perché parliamo? Da dove viene? Qual è l'origine di questo linguaggio? È evidente che deve essere un prodotto, come in ogni specie animale di questo pianeta, è un prodotto della evoluzione naturale, cioè della pressione che ha fatto su di noi l'evoluzione. Quindi l'evoluzione, i due principi fondamentali sui quali si basa l'evoluzione, come l'ha formulata per la prima volta Charles Darwin nel 1861, quando uscì l'origine della specie, eccetera, sono che i cambiamenti e le trasformazioni nelle specie animali avvengono per una serie di mutazioni casuali che avvengono in alcuni individui nelle singole specie, e alcune di queste mutazioni casuali, quindi non c'è nessun progetto intelligente, non c'è nessun disegno nello sviluppo della, diciamo, natura, avviene tutto sulla spinta del caso. Casualmente alcuni individui presentano certe mutazioni, cioè certi caratteri differenti da quelli della maggioranza della loro specie, e poi diciamo la pressione dell'ambiente fa sì che fra queste mutazioni, quelle che si dimostrano a posteriori, non a priori naturalmente, quelle che si dimostrano più adatte per fare vivere meglio questi individui che ne sono affetti da queste, come dire, mutazioni rispetto agli altri, queste mutazioni si trasmettono da una generazione all'altra. Perché? Perché se queste mutazioni creano negli individui che ne sono affetti una maggiore possibilità di procurarsi del cibo e una maggiore possibilità di accoppiarsi tra esseri di sesso diverso nella stessa specie, questi individui che sono portatori di queste mutazioni saranno avvantaggiati rispetto a quelli che ne sono privi nella lotta per la sopravvivenza. Non è una lotta, come dire, cosciente, no? Però queste persone, se mangiano meglio degli altri e se si riproducono più degli altri, evidentemente hanno più possibilità di altri di trasmettere alla propria progenie le stesse mutazioni da cui il loro corredo genetico è, diciamo, provvisto. Tutto lì. Ad un certo punto succede che quando queste mutazioni si accumulano e diventano tali da configurare un individuo anche di poco diverso da quelli, dai suoi conspecifici, cioè da quelli che fanno parte della sua specie, ecco che abbiamo il meccanismo per cui nascono delle nuove specie. Ovviamente questo meccanismo, questo dispositivo chiamato di selezione, questa è la selezione naturale, no? La selezione avviene per mutazioni casuali e pressioni ambientali. Le mutazioni casuali combinate con queste mutazioni ambientali fanno sì che alcune di queste, certo, se una mutazione non è di alcuna utilità all'individuo che la porta, cioè non migliora le sue prestazioni in termini di procurarsi il cibo e di accoppiarsi con le femmine, se è un maschio, o con i maschi se è una femmina, queste mutazioni hanno pochissima, scarsa, nessuna probabilità di essere tramandate nelle generazioni successive, perché questi esseri probabilmente moriranno prima di potersi accoppiare, quindi prima di potersi, moriranno in media, è sempre una questione di media, cioè comunque in media la gran parte di loro morirà prima di poter. Mentre invece se queste mutazioni casualmente, in modo del tutto casuale, assicurano a questi individui un maggiore accesso, un migliore accesso al cibo, un più facile accesso al cibo e un più facile accesso all'accoppiamento con i suoi conspecifici, evidentemente queste, le loro, come dire, mutazioni si trasmetteranno. Insomma, tutto lì. I tempi che occorrono perché si sviluppi un dispositivo, perché si vedano gli effetti di un meccanismo di genere, sono lunghissimi, evidentemente, non sono le decine, né le centinaia, né le migliaia di anni, sono le centinaia di migliaia di anni, i milioni di anni, le specie nascono così, nascono per effetto di processi che durano milioni di anni in genere, insomma, da pochi milioni ad alcune decine di migliaia di milioni di anni, non sono cose. Ora, non c'è dubbio che il linguaggio, considerato in una prospettiva evoluzionista, deve essere una di queste cose. Quali sono gli organi del linguaggio? Che cos'è che consente agli uomini di parlare? Sono due cose. Sono una particolare conformazione di quelli che si chiamano gli organi vocali, cioè degli strumenti di produzione del suono, che consente a questi, insomma a noi, agli esseri umani, di produrre una gamma di suoni più varia, più vasta di quella dei nostri più prossimi parenti. Quindi ci sono, diciamo, partiamo come punto di partenza, c'è una configurazione molto specifica degli organi vocali nel nostro corpo. Questa configurazione specifica consiste, diciamo, di tre elementi fondamentali. Diciamo tre, insomma, forse sono anche di più, ma io ne vedo tre, insomma. Il primo è l'abbassamento della laringe rispetto alla faringe, cioè l'abbassamento dell'ingresso del canale respiratorio, che si trova tutti e due nella parte inferiore, nella parte bassa e inferiore della testa, cioè tra la testa e il collo, insomma, no? Sono due, cioè, diciamo, l'ingresso dell'apparato digerente, la faringe, e l'ingresso dell'apparato respiratorio, che è la laringe. Ora, normalmente in tutti i primati, o in quasi tutti i primati, la laringe è più alta della faringe, e questo consente ed è arretrata, è più, diciamo, indietro. La prima condizione che consente a noi di parlare è quella del fatto che la faringe sia più bassa. Questo amplia un po' di più, amplia un po', ma non moltissimo, la cavità vocale, cioè la cavità orale, cioè la cavità nella quale i suoni si formano. Io adesso, se tu mi senti, se noi ci parliamo, è perché questi suoni si formano con una emissione dell'aria, all'interno vengono fatti risuonare nella cavità orale, poi vengono emessi, espulsi tramite la bocca. Il secondo elemento sono le corde vocali, cioè questa specie di ispessimenti del tratto sotto laringeo, che con la loro vibrazione sono non gli unici ma i principali responsabili del suono. Questi suoni si emettono, è tutto questo che sta succedendo ora mentre io parlo, sta succedendo mentre tu parli, mentre noi parliamo, mentre questo è il meccanismo con cui si producono i suoni. Ci sono queste due protuberanze molto forti che non hanno gli altri primati, che vibrano con l'aria che gli passa in mezzo. E la terza cosa è allora, abbassamento della, diciamo, laringe, presenza delle corde vocali, e terzo, come dire, una più ampia gamma di muscolatura facciale. Il maggior numero di muscoli facciali che noi abbiamo, sempre rispetto ai nostri parenti più prossimi, quindi agli altri primati cosiddetti superiori, un tempo si chiamavano scimmie antropomorfe, insomma, cioè gorilla, scimpanzé e oranghi, noi abbiamo una muscolatura facciale più ricca, ci consente di fare più movimenti con la... Questo implica una maggiore, virgolette, espressività, cioè una maggiore capacità di cambiare, ma soprattutto una possibilità di conformare la forma interna della cavità orale più fine di quella degli altri, come dei primati. Questo è quello che ci consente, questo è perché gli altri primati non hanno lo stesso numero di suoni e di sfumature di suoni riconoscibili come quella che abbiamo noi. Questa è la prima componente, però questa componente ovviamente da sola non vuole dire nulla, non sarebbe, diciamo, sufficiente da sola. Perché? Perché se io, no? se io parlo con il mio cane o con il mio gatto, nonostante che tutti i proprietari di cani e di gatti siano convinti che il loro gatto e il loro cane li capiscono, ma il loro gatto e il loro cane non capiscono nulla del significato, cioè capiscono l'intonazione, la roba, capiscono dal loro punto di vista quello che possono capire, ma non capiscono il linguaggio, insomma. Perché non capiscono il linguaggio? Perché la seconda grande e forse più importante componente del linguaggio sta nel cervello, non sta negli organi, evidentemente, diciamo, vocali. Sta nel fatto che noi abbiamo uno sviluppo della neocorteccia, cioè dello strato più esteriore del cervello, cioè delle cellule cerebrali, che anche gli altri primati possiedono in parte, ma non così sviluppato come il nostro. Il nostro è sviluppato estremamente di più, perché noi abbiamo dal doppio a tre volte la capacità cranica di uno scimpanzé o di un gorilla, quindi abbiamo molto più spazio dentro al cranio, quindi abbiamo un cervello molto più grande del loro. E questo semplice fatto vuol dire che all'interno di questo cervello la neocorteccia, cioè tutta la zona più esterna che avvolge la cosa, è molto più sviluppata che negli altri primati, e dentro questa zona, dentro questa corteccia si sono create delle zone, quindi di cervello, cerebrali, dedicate esattamente, che ricevono gli impulsi sonori, no? Le orecchie hanno questo, come dire, le orecchie nostre sono come quelle di tutti i mammiferi, dei rivelatori di suoni molto, molto fini, molto, molto delicati, riescono a percepire altezza, quindi frequenza, ampiezza, dei vari, come dire, suoni. Ma poi nel cervello c'è una centralina o più centraline, dipende, perché sono molte aree, le aree del linguaggio, diciamo, destinate alla comprensione del, diciamo, suono. Quindi questi suoni vengono decodificati da questo che entro certi limiti potremmo dire che è un software, diciamo, cerebrale, no? È un modo di funzionamento delle cellule, dei, diciamo, neuroni, attraverso i quali noi riconosciamo i suoni, quindi siamo in grado di leggere esattamente le sequenze di suoni. Quindi se io ho detto esattamente le sequenze di suoni, il tuo cervello ha decodificato che c'è una E, poi una S, poi una A, poi una T, poi una T, quei suoni. Ma questo ancora non vuol dire nulla, perché c'è accanto a queste zone, ci sono quelle, le zone cerebrali, che danno significato a queste parole, che riconoscono che cosa significa per noi esseri umani la sequenza di suoni esattamente. Per il gatto di casa mia o per uno scimpanzé o per un cane non voglio dire nulla, no? Non significa niente. Per te significa qualche cosa, perché è una parola che hai già sentito, o che se non hai sentito la puoi riconoscere perché sai che è formata, e sai cosa vuol dire esatto, sai cosa vuol dire il suffisso mente attaccato ad un aggettivo che forma una cosa chiamata avverbio. Non importa che tu sappia i nomi di queste cose, ma sai, anche se non hai mai fatto grammatica nella tua vita, non sai che caso, ma sai che cosa vuol dire esattamente, capisci che cosa, come dire, significa. Quindi c'è una, e tutto questo da che cosa, come dire, deriva? Deriva da un accordo più o meno spontaneo formatosi a lungo, diciamo nel tempo, tra i membri di una certa specie, per cui queste sequenze di suoni vogliono dire una cosa e non un'altra. Il rapporto tra, diciamo, significante e significato, insomma, dentro una lingua naturale è un fatto ovviamente non fisico, cioè fisico perché ci devono essere delle zone cerebrali che lo che ci consentono di decodificare, quindi di capire esattamente o più o meno esattamente cosa ha detto l'altro. Poi si può sempre sbagliare: se io parlo rapidamente, non si capisce più nulla, questo è ovvio, no? Se io parlo inglese è possibile che un parlante inglese non riconosca esattamente tutti i suoni miei, perché quando dico when I speak English, può essere che when I speak English detto da me e when I speak English detto da uno di vera madrelingua inglese siano molto diversi anche dal punto di vista dei suoni, però dopo un po' che uno mi sente parlare anche l'inglese capisce e adatta la sua comprensione alla mia. Quindi è un sistema molto duttile, molto, che si è formato col tempo, che si è formato all'interno della lunga strada dell'evoluzione. Allora, tutta questa lunga storia si fa perché? Perché sembrerebbe stupido dover insistere su robe di questo tipo, perché insomma, sinceramente uno dice, ma dove diavolo viviamo? Insomma. È che, come dire, purtroppo in molta parte degli studi si perdono le conseguenze di questi fatti, cioè non si tiene sufficientemente conto di questo fatto. Allora, il fatto quindi fondamentale qual è? È che il linguaggio è una fra le tante, come dire, fra le tante esplicitazioni è uno fra i tanti strumenti che organizzano l'attività di un essere biologico che è la specie Homo sapiens, è una caratteristica. Obiettivamente è una strumentazione unica nel regno animale, ma non tanto unica al punto da non poter essere messa in relazione con una serie di altre strumentazioni che hanno altre specie animali, in particolare quelle a noi più vicine. È chiaro che l'insieme dei suoni emesso dai gorilla, da tutti i primati e più in generale da quasi tutti i mammiferi per comunicare delle informazioni ai propri simili o per esprimere delle emozioni è simile al linguaggio, ha le stesse basi, ha delle basi fisiologiche simili al linguaggio, solo che questi altri animali, non avendo la laringe abbassata, non avendo la cavità boccale come è fatta noi, non avendo le corde vocali, non sono in grado di produrre una varietà così articolata di suoni come siamo in grado di noi, ma ce l'hanno comunque la loro, quindi c'è una certa continuità tra quei sistemi di comunicazione e di espressione animali e il linguaggio. Naturalmente c'è un salto di qualità, e il salto di qualità qual è? È quello che abbiamo detto, è la doppia articolazione, cioè il fatto che gli esseri umani non usano attribuire, se non in casi molto specifici, dei significati ai singoli suoni, ma hanno deciso, non ha deciso nessuno, ma si è sviluppato poco a poco così, diciamo, attribuiscono significati solo alle sequenze, solo a due o più suoni messi in sequenza. E questo moltiplica, esplode, cioè fa passare da poche decine a virtualmente infinite o a centinaia di migliaia, milioni, la possibilità di significati che possono essere espressi con i suoni. Questa, semplicemente questa, è una cosa, come dire, stupida, sin troppo semplice, no? Ed è effetto di una evoluzione, come dire, biologica. Quindi il carattere biologico del linguaggio non può essere messo in discussione. Non può essere messo in discussione. Liberiamoci subito di una cosa a cui ho già accennato altre volte, ma la ripeto ora perché mi pare, come dire, importante. Il carattere biologico del linguaggio implica che il linguaggio in quanto tale, cioè la possibilità di parlare, la facoltà di parlare, è una caratteristica biologica degli esseri umani, non culturale. È la base della cultura, naturalmente, ma non è esso stesso un prodotto della cultura. Tutto il resto è un prodotto della cultura, ma non la facoltà di linguaggio. La facoltà di linguaggio è biologica e quindi, in quanto biologica, è ovviamente universale per la specie. Non esiste essere umano che non sia dotato della facoltà di linguaggio, come non esiste essere umano che non sia dotato di due braccia e due mani con 10 dita, tranne casi particolari di quelli che l'hanno persa o di quelli che nascono con dei difetti genetici, ma insomma, diciamo, il fatto che il linguaggio quindi sia una caratteristica biologica, la facoltà di linguaggio sia una caratteristica biologica e quindi universale del linguaggio, implica che il linguaggio abbia delle caratteristiche minime, che tutti i linguaggi abbiano delle caratteristiche minime, universali, descrivibili, che ci sia una base nella struttura del linguaggio, non nei prerequisiti biologici. Quelli ci sono quelli che ho detto prima, l'abbassamento della laringe, le corde vocali, questo è ovvio. Ma al di là di questo, insomma, esiste quella che Chomsky chiama la grammatica universale? Tutti i linguaggi hanno davvero una struttura comune, profonda, che scavando si trovi? Questo non è detto. Può essere di sì, può essere di no, ma non è una conseguenza immediata e automatica del fatto che la facoltà di linguaggio sia una questione biologica. Tutto quello che noi possiamo dire sul carattere biologico del linguaggio è che la nostra biologia ci consegna, ci dà, ci munisce, ci fornisce, diciamo, noi nasciamo tutti con la facoltà di parlare. Cioè abbiamo non solo gli organi vocali, attenzione, non solo gli organi vocali precostituiti per produrre dei suoni, ma abbiamo anche il cervello, cioè la ricchezza di, diciamo, neuroni, il numero di neuroni e nelle connessioni possibili tra i neuroni necessari per produrre e capire un linguaggio naturale. Ma quale fra gli innumerevoli linguaggi creati dagli esseri umani sarà il linguaggio che noi apprendiamo in un periodo di tempo molto breve? Questo è quasi certamente miracoloso, ma non così tanto, quando siamo piccoli. Questa cosa non può essere preventivata, perché noi apprenderemo esattamente il linguaggio al quale siamo esposti quando siamo piccoli. Se sentiamo parlare italiano, parleremo italiano. Se siamo in Cina e sentiamo parlare cinese, impareremo il cinese entro un anno e mezzo, due, massimo tre della nostra vita. Noi sappiamo parlare la lingua della comunità nella quale siamo nati. Se nel nostro giro si parlano più lingue, impareremo più lingue. Ci metteremo forse un pochino più di tempo, questo sì, per fare il primo passo. I bambini bilingui o trilingui ci mettono quei 6 mesi, a volte un anno di più, poi ci sono tantissimi casi, sono casi, noi ora parliamo di media, insomma, in media il bambino nel primo anno accumula, come dire, materiale sonoro, fra il primo e il secondo anno comincia a comprendere, comincia ad associare a questo materiale sonoro dei significati, cioè capisce cosa vogliono dire queste lunghe catene di suoni, e comincia contemporaneamente a cominciare a produrne lui, dopo un anno di vita, grosso modo. In capo al secondo anno di vita è in grado di avere una decente, ma ancora limitata comprensione del linguaggio degli adulti, e una decente, ma ancora molto rozza e molto imperfetta produzione, come dire, verbale. A partire dai 2 anni e mezzo, 3, il bambino è padrone, totalmente padrone del meccanismo linguistico. Totalmente padrone, avrà meno lessico, saprà meno parole, ma capisce e produce la lingua esattamente come un essere adulto, come un uomo adulto, come un essere umano adulto. Allora, ma è questo, diciamo, quale fra le varie lingue sarà dato solo da questo? E le varie lingue non è detto che abbiano tradotto, non è detto, io non lo nego, può essere che sia così, ma purtroppo non c'è alcuna, cioè, nonostante quello che pensa Chomsky, non c'è nulla nella biologia del linguaggio che possa automaticamente farci pensare che ci sia questa struttura, quindi questa positività descrivibile, cioè il linguaggio, tutti i linguaggi sono fatti così, i linguaggi possono essere fatti sulla base della loro comune strumentazione biologica, cioè organi fonatori, organi della fonazione, organi ovviamente della ricezione fisica, cioè sono le orecchi, e organi della comprensione e della produzione, cioè il cervello, è sempre nel cervello, che è tutto il corpo, il cervello da solo come ovvio non può dire, ma è dentro il cervello che avviene, come dentro il cervello avviene la maggior parte delle cose che facciamo, noi non solo parliamo con il cervello, capiamo con il cervello, ma amiamo con il cervello, facciamo l'amore, il sesso, lo facciamo con il cervello, certo abbiamo bisogno delle parti del corpo destinate, ma e ci sono alcune specificità per cui alcune cose possiamo fare solo con certe parti del corpo. Nel sesso bisogna dire no, perché il sesso è quello, cioè tutto il nostro corpo è una fonte di materiale erotico, mica sono gli organi sessuali. Nel linguaggio certamente non possiamo produrre. Però attenzione, guardiamo i sordomuti, guardiamo noi, siamo in grado di produrre l'equivalente di un sistema simbolico linguistico anche se abbiamo gli organi fonatori impediti, quindi se non possiamo parlare, anche se abbiamo gli organi, se siamo sordomuti siamo in grado, perché possiamo parlare un linguaggio dei segni che è un po' più limitato, un po' più rudimentale, ma che nella sua essenzialità davvero equivale ad un linguaggio, no? Quindi anche lì attenzione, cioè come dire, i casi di insomma, sfortuna, di limitazione fisiologica di esseri umani per andare, ci mostrano che siamo animali, come dire, che il linguaggio è talmente connaturato con il nostro essere che siamo in grado di riprodurlo anche con altri strumenti che non siano, che non siano la bocca. Attenzione, studi fatti da più tempo dimostrano che fra l'altro opportunamente addestrati, anche i nostri cugini, cioè anche i primati antropomorfi, anche le cianobre, sono in grado di fare questo. Sono in grado di capire e di produrre linguisticamente. Basta che le addestriamo. Certo, la loro più limitata capacità cranica li confinerà per sempre ad un livello molto basso nella produzione linguistica. Anche uno scimpanzé adulto, il massimo di produzioni linguistiche, non con i suoi organi fonatori perché non ne ha, ma per esempio con dei gesti, anche lo scimpanzé sarà limitato, avrà un livello linguistico di un bambino di circa 3 anni, cioè di un essere umano all'inizio della sua carriera, come dire, linguistica, però lo capirà il linguaggio, sarà in grado di, ci sono stati scimpanzé, sono state fatte esperienze in questo senso, con gli scimpanzé soltanto, che sono quelli più vicini a noi peraltro, che condividono il 98% del nostro DNA, 98% è uguale a quello di uno scimpanzé, solo il 2% è come dire, diverso, e ci siamo separati 6 milioni di anni fa, non oggi, 6 milioni di anni fa hanno cominciato a separarsi le linee evolutive che hanno dato origine all'attuale Homo sapiens attraverso una serie di specie intermedie e allo scimpanzé diciamo attuale. Quindi questo significa, questo è una prova in più, o insomma una prova indiretta in più, se vogliamo, come ovvio del carattere biologico del linguaggio e del carattere del carattere biologico del, come dire, linguaggio. Allora, le due osservazioni le abbiamo fatte. Una, l'universalità biologica del linguaggio non implica automaticamente una universalità di struttura del linguaggio. Non è detto che esista davvero, anzi è più probabile che non ci sia che non che ci sia, una reale struttura che accomuna tutti i linguaggi. La mente umana, cioè la capacità di linguaggio, è così plastica che si può realizzare in modelli concreti di produzione verbale, quindi di lingue, diversissimi gli uni tra gli altri, che hanno poco o ben poco in comune, se non naturalmente la loro base biologica, come ovvio i suoni saranno più o meno gli stessi o come dire simili, quindi, ma questo è il massimo che noi possiamo dire sulla base, è bellissimo, è affascinantissimo, è generosissimo cercare di trovare la struttura universale con linguaggio, però rassegniamoci, cioè se è un compito che non ha senso, diciamo che è un compito che non ha senso, anche se uomini certamente grandi e molto più grandi di me si sono dedicati a questo progetto, però insomma se il progetto è destinato al fallimento, è meglio comunque saperlo, è meglio prenderne atto. Prima, diciamo, conseguenza. Una seconda cosa che ci possiamo chiedere, una volta che abbiamo stabilito quindi che il linguaggio ha una base biologica, che è la nostra dotazione biologica, a questo en passant, sulla base di questo potremmo finalmente smetterla per la prima volta di continuare a contrapporre la cultura alla natura. Ma noi siamo esseri culturali, sì, certo, siamo esseri culturali, abbiamo una particolare strategia di adattamento all'ambiente di terrestre che si chiama cultura, che si chiama linguaggio. Ma la cultura è la nostra biologia, potremmo dire con uno slogan, un po'. Cioè, non è che la cultura è una dimensione, abbiamo una dimensione extra, noi abbiamo la cultura. La cultura è il nostro modo specifico di specie animale di rapportarci con l'ambiente. Siccome siamo animali linguistici, siamo gli unici, certo, che abbiamo questo strumento, diciamo, il linguaggio genera cultura, ma se il linguaggio ha delle basi biologiche, anche la cultura ha delle basi biologiche. E anche lì avrà avuto ragione Lévi-Strauss, hanno avuto ragione gli antropologi strutturalisti a pensare che esistessero delle strutture universali della cultura. Beh, non è detto, forse no e anzi probabilmente no. Il massimo che noi possiamo dire è che siamo geneticamente e biologicamente predisposti al linguaggio e quindi anche alla cultura, ma poi le strutture, le forme particolari che queste culture, come i linguaggi, ricevono hanno ricevuto storicamente, nello sviluppo storico, nei 200.000 anni di vita di Homo sapiens, o nel milione e mezzo di anni di vita di Homo, o nei 4 milioni e mezzo di anni di vita degli australopitechi, cioè degli ommidi, come si chiamano, di tutte le specie più o meno collegate con l'uomo, cioè da quando ci siamo separati davvero, da quando c'è stata una linea evolutiva che ci ha separato dalle altre, dagli altri primati, può essere benissimo che non ci sia una struttura universale della cocultura. E che quindi le culture si possono certamente capire l'una con l'altra, perché se hanno una base biologica comune si possono capire, come si possono capire le persone che parlano lingue diverse, perché le lingue diverse si possono imparare, certo, più o meno bene, più o meno. Però non è detto che questo implichi il fatto di avere una cultura. Però, come dire, allora, una volta stabilito che, quindi, come dire, il linguaggio è un organo biologico, che è nato dalla nostra, come dire, biologia, e che il fatto che il linguaggio caratterizzi l'essere umano, cioè la specie Homo sapiens come specie su questo pianeta, implica, allora non so se sto riassumendo praticamente quello che la linea di questo libro, poi non è che tutte le volte dicono così, insomma, perché allora tutto questo implica, cioè, a rigor di logica, se noi siamo animali linguistici e se la specie Homo sapiens esiste da 200.000 anni, la conclusione è solo una. Vuol dire che il linguaggio è stato uno strumento, è stato uno, non forse non l'unico, ma uno, forse però uno anche dei più importanti elementi che hanno assicurato la sopravvivenza della specie. Una specie che parla e che sopravvive per 200.000 anni, 200.000 anni sono molto pochi, sono pochissimi, siamo appena nati noi come specie sulla scala, diciamo, biologica, sulla scala dell'evoluzione, però comunque ci siamo nati, 200.000 anni, Homo sapiens sta su questo, come dire, pianeta. È possibile pensare che il linguaggio non c'entri niente col fatto che noi siamo sopravvissuti, col fatto che la specie si è impiantata su questo pianeta? Pare molto improbabile, cioè il linguaggio, come la stazione eretta, come le nostre caratteristiche fisiche, come tutto l'insieme di ciò che fa di noi esseri umani, devono essere tutti elementi che hanno contribuito, che hanno fatto sì, cioè che hanno contribuito alla sopravvivenza di questa specie. Allora, se questo è vero, tutto il modo che noi abbiamo avuto tradizionalmente, dall'origine, da quando c'è, almeno da quando noi possiamo, siamo in grado di studiare le nostre culture, cioè da quando abbiamo dei documenti scritti, cioè negli ultimi 5.000 anni, che sono pochissimi, però è quello che noi possiamo fare. Prima di 5.000 anni fa non possiamo dire quasi nulla, perché abbiamo soltanto degli scheletri e dei manufatti, in genere delle pietre schiacciate. E qualche, certo, qualche, i primi attrezzi agricoli, perché l'agricoltura era nata già prima di 5.000 anni fa. Allora, da circolari noi vediamo che gli esseri umani hanno in genere, come dire, equivocato sulla funzione e sul a che cosa serve il linguaggio, ma perché parliamo, noi ci siamo chiesti. Allora, il perché, attenzione, la domanda perché è una domanda ambigua, perché, perché gli si possono dare risposte diverse a seconda che siamo dentro un... A seconda che siamo dentro un quadro di risposta di tipo, come dire, finalistico, teleologico, c'è un progetto nel mondo, quindi perché, ok, siccome io mi sono messo fino dall'inizio fuori da questo quadro, il mio modo di chiedersi perché non sarà di questo tipo. Il chiedersi perché parliamo equivale a qual è stata la funzione principale del linguaggio nella nostra, cioè perché il linguaggio è stato un fattore di sopravvivenza, di miglioramento della capacità di sopravvivenza della specie umana. Questo, in questo senso mi chiedo perché. Ogni discorso che sia all'interno di una prospettiva evoluzionista e quindi non creazionista e quindi non finalizzata, cioè non c'è nessuna finalizzazione, non c'è nessun processo finalistico dentro la condatura, tutto avviene per caso. Ed è soltanto l'essere umano a posteriori, perché è un essere linguistico, che cerca i perché, che cerca le spiegazioni, ma nessun altro animale sinora, perché non conosciamo nessun altro animale che abbia un sistema simbolico così sviluppato come il linguaggio. Allora uno si chiede qual è stato. In genere la risposta che è stata data a questa, diciamo, domanda, che cos'è il linguaggio, o in altri termini a cosa serve il linguaggio, in genere si risponde: il linguaggio è... La risposta più comune è stata questa, ed è quella che ancora adesso nella nostra testa ci insegnano fino a quando siamo piccoli, eccetera. Il linguaggio è uno strumento di comunicazione. Il linguaggio serve prevalentemente, principalmente per comunicare all'interno della specie umana, esattamente che è l'uso che ne sto facendo io adesso. Ti sto comunicando una serie di contenuti, tu li stai trascrivendo, cioè, chiarissimo, è ovvio che ha questo aspetto il linguaggio. Qualcuno però ha detto, dice, però non è detto che il linguaggio serva solo, perché il linguaggio serve anche, a volte uno parla da solo, stai solo in casa, incazzato, ti hanno fatto la parlata, chiudi il telefono, dice, quel disgraziato, maledetto, con chi stai comunicando? Con nessuno, la casa è vuota, sei solo tu per dire, parlo per me che vivo da solo. Allora, quelli che vivono da soli, uno che sta per la strada, inciampa, grida, aia, vabbè, quello non è proprio linguaggio, è una cosa, ma insomma... Allora uno dice, ma il linguaggio forse non serve solo per la comunicazione, o non serve forse esclusivamente per la comunicazione, e serve invece per l'espressione. Cioè è uno strumento molto ricco e molto potente di espressione delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni. Esattamente come sono i suoni, cioè come quando il cane gli pesti la coda e il cane abbaia, cos'è quell'abbaio che non è linguaggio, ma non sta comunicando niente in quel momento il cane, non gli frega nulla, non è che aspetta l'ambulanza che gli medichi la coda, no? È ovvio, dice mi hai fatto male, ai ai ai che male che ho, è una espressione di dolore, come quando noi gridiamo per il mal di denti, perché ci pesano un piede, perché sbattiamo la testa contro lo stipite della credenza che non abbiamo visto, o perché una vespa ci punge. No, è la stessa cosa. Ora, queste sono grosso modo le due principali risposte che sono state date. Il linguaggio ha una funzione comunicativa o il linguaggio ha una funzione espressiva. Ora, nessuna delle due è sbagliata di per sé, ma da un punto di vista evoluzionistico, non ci dice la cosa fondamentale, però. Perché non ci dice. Allora io mi posso chiedere, ma in che senso uno strumento così raffinato di comunicazione intraspecifica all'interno della specie? Io posso comunicare solo con altri esseri umani, ripeto, se parlo al cane, o se parlo alla formica, o se parlo all'ombrico, questi non mi capiscono, posso parlare solo ad altri esseri umani. Quindi è uno strumento di comunicazione intraspecifico. Quali vantaggi evolutivi mi ha dato a me, essere umano, il fatto di avere un sistema di comunicazione intraspecifico così, così raffinato, così ricco, così eccessivo, ridondante, eccessivo, è molto di più di quello che ci serve, allora io mi devo chiedere perché un milione e mezzo di anni fa c'erano decine, forse centinaia di specie di primati cosiddetti antropomorfi, con delle dimensioni simili alle nostre, e dopo un milione e mezzo di evoluzione della linea ominidi ce ne sono solo tre. Perché è sopravvissuto? Perché sapevamo comunicare meglio tra noi? Vabbè, ma vediamo che significato ha avuto nei confronti della, perché anche altri comunicano, cioè una comunicazione intraspecifica, cioè fra tutte le specie animali, tutte, nessuna esclusa, anche tra l'ombrico e l'ombrico, anche tra lumachina, insomma, non è che siamo gli unici che abbiamo, anzi abbiamo un sistema di comunicazione, hai giustamente osservato, sovrabbondante, ridondante, eccessivo quindi, quindi che cosa è? Non parliamo poi dell'espressività, ma da quando in qua l'evoluzione naturale ha tenuto in conto l'espressività? Da quando in qua è stata creata una specie perché è espressiva, non gliene frega niente alla, come dire, natura della poesia, della capacità di esprimere. Quindi è chiaro che tutte e due queste, come dire, domande sono limitate. La conclusione, anche lì, l'unica conclusione possibile se vogliamo rimanere all'interno di un quadro evoluzionistico concreto, è tutte e due queste cose, sì, ci sono tutte e due, ma, come dire, amplificano la caratteristica di fondo del linguaggio. Il linguaggio è uno strumento cognitivo, è uno strumento ricchissimo di cognizione del mondo, di cognizione dell'ambiente e quindi di rapporto con l'ambiente. Caratterizza un rapporto con l'ambiente, e questo è il grosso, e infatti questa è la nostra specificità, è la nostra altra specificità, perché se uno va a chiedersi ma che cosa caratterizza gli esseri umani rispetto a tutte le altre specie animali, che cos'è che finora si è visto che hanno soltanto gli esseri umani su questo pianeta? Sono due cose, una l'abbiamo detta ed è il linguaggio, e l'altra qual è? È che l'uomo, Homo sapiens, è l'unica specie su questo pianeta che non ha una nicchia ecologica. Tutte le specie hanno un rapporto determinato con alcuni ambienti naturali, tutte, con alcuni particolari ambienti naturali, e sopravvivono e si sviluppano soltanto in quelli. Tutte. Certo, tu dici, ma ci sono gli zoo, ma infatti per tenere in vita uno zoo ci vuole una faticaccia della Madonna, perché bisogna ricreare artificialmente e male e evidentemente in un ambiente totalmente diverso, per esempio in una zona temperata, bisogna ricreare un clima o qualche o le caratteristiche di un clima tropicale per fare vivere i leoni, e comunque si sa benissimo che i leoni e le zebre e tutti questi animali qua nei zoo vivono male. O nei zoo o nei circhi, vivono male, vivono non solo infelici, ma vivono deboli, cioè sono non sono gli stessi animali che vivono. Cioè un leone nato in cattività, se lo porti nella savana, muore dopo pochi giorni, perché non ha nessuna delle caratteristiche. Ogni specie animale su questo pianeta è collegata con una particolare zona, con un particolare ambiente. L'animale, tutte le specie animali si adattano all'ambiente nel senso che sviluppano le caratteristiche che gli servono per sopravvivere in quell'ambiente, che sono molto specifiche, di tipo fisico, di tipo anche psichico, nel senso, per quanto riguarda di tipo strategico, il tipo di movimenti che fanno, le cose che fanno, eccetera, eccetera. Il leone sopravvive bene nella, diciamo, savana perché ha certe caratteristiche fisiche, la gazzella sopravvive bene perché è in grado di correre rapidissima e quindi in genere è in grado di sfuggire al leone predatore che se la vuole mangiare. Infatti nessun leone si è mai nutrito di gazzelle sane, cioè perché la gazzella è più veloce del leone. I leoni mangiano solo le gazzelle azzoppate o quelle che inciampano o quelle geneticamente messe meno bene, che infatti non ci sono crisi, insomma. Se no le gazzelle si sarebbero già estinte da quel pezzo se non fossero in grado nella loro maggioranza di sfuggire al leone. Ma vai, metti una gazzella dentro al circolo polare artico, questa muore dopo un tot che non sa cosa mangiare, non sa, cioè tutto quello che... Ora, noi esseri umani siamo fatti così? Viviamo dentro un ambiente naturale? No. Ci siamo in poco tempo, in un tempo anche lungo volendo, ma insomma, in alcune decine di migliaia di anni, la specie Homo sapiens, ma anche altre specie di Homo prima di noi, già Homo erectus, già Homo neanderthalensis, hanno migrato da una zona all'altra del pianeta. Ci siamo espansi su tutta l'area del pianeta, in zone tropicali, in zone temperate, in zone artiche, dappertutto, dove fa caldo, dove fa freddo, dove fa... Perché? Perché abbiamo... Allora, uno dice, vabbè, ma queste sono due cose diversissime. Cioè, sarebbe veramente strano se le due caratteristiche che ci caratterizzano, che ci diversificano dalle altre specie animali, fossero totalmente scollegate. Ci sarà un collegamento quindi tra la facoltà di linguaggio e la universalità ambientale, chiamiamola così, degli esseri umani, cioè la possibilità, la capacità di... Perché il linguaggio implica uno sviluppo della tecnica che va molto al di là della primitivissima tecnica che non ce l'ha solo Homo sapiens. Le pietre le scheggiavano anche gli australopitechi 1,5-2 milioni di anni fa. Non siamo gli unici che hanno scheggiato pietre. È una cosa che ci è venuta dai nostri cugini più prossimi, da quelli delle altre specie ominidi o simili all'uomo, quindi più simili all'uomo che allo scimpanzé, che però forse non parlavano, o chi lo sa, questo non possiamo saperlo, se gli australopitechi parlavano, se Homo erectus parlava, se neanderthalensis forse sì, ma forse anche altri Homo, io sono convintissimo che parlassero, o che avessero qualche cosa di molto simile al, come dire, linguaggio. Allora, primo, il linguaggio è quello che è stato in grado di assicurare il passaggio della tecnica da una generazione all'altra, perché la tecnica non è un qualche cosa che noi abbiamo innato, non è una facoltà, sì, la facoltà è come sempre, la facoltà di tecnica è innata. Innata e si è sviluppata a un certo punto, l'uomo se l'è come dire trovata, ma le singole tecniche noi non nasciamo sapendo scheggiare le pietre, non nasciamo sapendo accendere un fuoco, non nasciamo sapendo costruire una casa o anche una capanna di frasche. Sono tutte cose che qualcuno ci deve insegnare, qualche altro essere della nostra specie più grande di noi, in genere i nostri genitori più o meno, o i nostri nonni ci devono come dire insegnare. Quindi primo, è stato in grado di fare questo. Secondo, il linguaggio, certamente attraverso una ricca che cosa ha creato, che cosa ha reso possibile la comunicazione intraspecifica così forte, così ricca come quella del linguaggio ha reso possibile una maggiore cooperazione tra i membri dei piccoli gruppi nei quali si era. Certo, ma anche i lupi cooperano, certo, all'animaccia sono bravissimi a cooperare, cioè il branco di lupi quando insegue una preda, la preda di, difficilmente gli sfugge, perché in 20 maschi riescono a fare fuori anche l'alce più grosso, anche il cervo più cattivo, anche, anche loro. Però nel caso nostro, nel caso degli esseri umani, probabilmente c'è stata una... come dire, c'è stata una capacità di scegliere, una capacità di migliorare anche le prestazioni della collaborazione, della cooperazione intraspecifica in modo più forte. C'è stata anche un'altra cosa, una cosa anche questa, che non è che noi esseri umani siamo unici, perché addirittura alcuni insetti la fanno, ma il modo in cui l'hanno fatta gli esseri umani è particolarissimo. Noi a volte ci sono alcuni, giustamente, etologi che insistono molto su questo, alcuni animalisti, ed è la capacità di addomesticare delle specie selvagge. L'analogia possibile però, se uno poi la studia bene, vede che è così, è quella, alcune formiche fanno la stessa cosa con alcuni piccoli, con alcune piccole specie di afidi, ma non è un vero addomesticamento, è che le formiche costruiscono il loro formicaio in un posto dove ci sono questi afidi, dove ci sono delle piante di cui questi afidi, che sono insettini verdi, piccolini, sono particolarmente ghiotti, e quindi gli afidi arrivano, qui che arriva la formica opportunista e gli sugge, mentre questa succhia la cosa, lei gli sugge del liquido, del nettare, loro li lasciano fare perché tanto mangiano. Ma non è esattamente come il rapporto dell'uomo col cane. Il cane è un lupo a tutti gli effetti. Il cane non c'era, la specie Canis Canis non c'era prima che ci fosse Homo sapiens, nasce quando c'è Homo sapiens. Canis Canis è un lupus particolare, modificato così, che ha così cambiato le sue abitudini, per cui nel giro di poche migliaia di anni si è creata una specie nuova, che è il cane. Il cane è un lupo modificato, ed è un lupo, ed è il discendente di alcuni lupi, individui lupi, che a poco si sono avvicinati a dei gruppi umani. Hanno visto che questi gruppi umani gli assicuravano l'accesso a del cibo al quale altrimenti non avrebbero avuto accesso questi lupi, o per cui avrebbero fatto molta più fatica, per esempio avanzi, pezzi di carcassa, di robe che l'uomo lasciava lì, buttava lì, li lasciava lì o addirittura glieli offriva, chi lo sa, non c'era nessuno lì a vedere, ma insomma questo è stato il processo attraverso il quale a un certo punto alcuni di questi lupi hanno visto, insomma, che era più utile, o meglio, è andata così le cose, quelli che hanno fatto questa scelta per delle ragioni totalmente casuali si sono rivelati, hanno avuto maggiore accesso al cibo e alla riproduzione di alcuni lupi selvatici, e quindi hanno dato la possibilità, hanno dato origine a una specie nuova, no? Ora questa di una collaborazione interspecifica è un fatto anche questo strano, ripeto, a parte questo caso delle formiche che ho detto prima, insomma, che però è un caso un pochino diverso, ma non c'è nessun altro mammifero che fa una operazione del genere. Come fa l'uomo a fare una cosa del genere? Anche lì pensiamo che il linguaggio non c'entri nulla? Pensiamo che il linguaggio sia totalmente estraneo alla capacità, il linguaggio vuol dire la capacità di nominare, la capacità, il linguaggio ti dà una capacità non solo di, appunto, comunicazione o di espressione, ma questa è la questione di concettualizzazione, questa è una strategia che si è rivelata ricca e utile, perlomeno in questa fase, per gli esseri umani, cioè la capacità di concettualizzare, cioè di parlare, è stato soltanto perché l'uomo ha il linguaggio che qualcuno è stato in grado di prevedere che cosa poteva, quali conseguenze poteva avere un certo comportamento, quello di buttare dei bocconi a dei lupi invece di cacciarli via col fuoco, quello di lasciargli dei bocconi vicino al fuoco invece, o di dargli addirittura, o come dire, di offrirglieli. È impossibile, c'è stata questa è la dimensione anticipativa, progettuale, che soltanto il linguaggio ci può dare. Nessun altro animale progetta, i castori non progettano di costruire dighe, le costruiscono perché è un loro impulso vitale, non possono fare altro, quando stanno nell'acqua, nella cosa, fanno le dighe, ma non c'è un progetto, nessuno di loro ha una capacità di previsione di quello che la costruzione di quella diga, diciamo, creerà, è un meccanismo totalmente automatico, come dire, no? Istintuale, istintivo. Negli esseri umani la presenza del linguaggio crea un comportamento che va un pochino al di là dell'istinto, perché consente di prevedere, è soltanto parlando che io posso inventare. E allora qui vedi che questa osservazione che abbiamo fatto prima ci torna giusta, ma il linguaggio ci darebbe questa capacità di progettare, di prevedere, di immaginare, se non fosse così ridondante? È la ridondanza del linguaggio che ci consente di progettare. Se non fosse ridondante il linguaggio, se non ci cioè il linguaggio non ci consente soltanto di costruire semplicemente un doppio di quello che c'è già, ci consente anche di parlare di ciò che non c'è ancora, o di ciò che non ci sarà mai, di ciò che ci inventiamo noi con la nostra testa, di ciò che immaginiamo, ma tra le tante cose che immaginiamo qualcuna poi che si può verificare. Cioè, insomma, tutti i comportamenti degli esseri umani arriviamo solo, perché adesso arriviamo, perché sembra tutto bello, ma invece c'è un risvolto, esatto, ma c'è un risvolto invece negativo. Allora, questo vuol dire che gli esseri umani non hanno, quindi che gli esseri umani, che il linguaggio è stata probabilmente la proprietà, la caratteristica degli esseri umani che ci ha consentito di non essere più dipendenti da un ambiente, ma di espanderci su tutto il pianeta, con le caratteristiche positive e negative che ciò implica, evidentemente, perché facendo questo abbiamo fatto anche una serie di guai, perché abbiamo modificato, o possiamo pensare di poter modificare il clima, perché abbiamo modificato fortemente l'ambiente, perché abbiamo costruito villaggi e città, no, grazie. Abbiamo costruito le città, abbiamo fatto tutte queste cose che abbiamo fatto, le facciamo solo perché parliamo. È il linguaggio la molla di tutto questo, di tutta questa serie di altre attività, che sono tutte attività collegate con la nostra facoltà di immaginare e quindi di pensare, che è una componente. Non è possibile pensare senza immaginare. Questa evidentemente è stata una strategia che ci ha reso, che ha consentito alla specie umana, sia pure entro quei limiti molto ristretti di tempo, 200-250.000 anni in cui c'è la specie Homo sapiens, che però, adesso 250 anni sono pochi, certo, ma attenzione, di questi 250.000 anni, i primi 100.000 si sono svolti in coabitazione con altre specie di Homo. C'erano altri Homo, quando è arrivato Homo sapiens c'era ancora Homo erectus, c'era ancora forse Homo habilis, non so, no, Homo habilis no, ma Homo erectus c'era sicuramente. A un certo punto Homo erectus si estingue. Intanto è venuto fuori Homo neanderthalensis, l'uomo di Neanderthal. 60.000 anni fa l'uomo di Neanderthal si estingue. È 40.000 anni che siamo soli su questo pianeta, soli, non abbiamo più cugini. L'abbiamo fatto noi? Chi lo sa? L'uomo di Neanderthal è molto probabile che sia stato Homo sapiens a, non dico sterminarlo fisicamente, ma ci sono delle prove paleontologiche che è stata l'espansione di sapiens che ha minato il terreno sotto i piedi all'uomo di Neanderthal, che gli ha reso difficile, perché lui aveva probabilmente altre strategie di approccio al rapporto con l'ambiente, eccetera, eccetera. Benissimo. E allora, adesso arriviamo, allora ci siamo sin qua, eh? Allora, sì. Cioè alla base ci sta comunque la consapevolezza che il pensiero cioè non esiste slegato dal linguaggio, per cui poi si può. Ovviamente, ovviamente, sì, io penso di sì, certo, certo. Tutte le ipotesi che noi possiamo fare sul pensiero, la coscienza ci può anche non essere, può essere una nostra invenzione, può essere che non siamo affatto coscienti come supponiamo, che sia una coscienti nel senso di quella dimensione così interiore, così interna, cioè, può essere che sia soltanto una produzione linguistica, ma della produzione linguistica non possiamo dubitare, perché parliamo. E non possiamo dubitare, il modo in cui possiamo esprimere la nostra coscienza è il linguaggio, quindi tutto l'insieme delle cose che noi facciamo con il linguaggio è chiaramente stato uno strumento di rapporto con l'ambiente, diverso da quello di altre specie animali, ed è quello che ci ha consentito di sfuggire al confinamento in cui sono, in cui vivono tutte le altre specie animali. Un ambiente, una specie. Una nicchia ecologica, una specie. Questa corrispondenza nel caso di Homo sapiens non c'è. La nostra nicchia ecologica è il pianeta, è la Terra. Ci siamo espansi ovunque. È plausibile questo? Sì. Fermiamoci qua un attimo. Andiamo a vedere un'altra cosa. L'organizzazione di Homo, l'organizzazione, scusa, delle specie animali in generi, cioè no, c'è la grande famiglia, poi c'è il genere, poi c'è la specie. Uno può dire, beh, ma sono robe che fanno gli esseri umani, insomma, però ci sono tutta una serie di specie animali che hanno delle parentele tra loro, quindi è del tutto normale che le specie che sono più apparentate tra loro le mettiamo insieme e facciamo i generi. Adesso se noi andiamo a vedere, devo solo trovare accidentaccio la figurina con, perché è molto semplice. Ok. Pennichi Falzone, pagina 211. Accendiamo la luce così. Grazie. Allora, questa è una cartina che ci fa vedere una specie di evoluzione degli ominidi. Gli ominidi a un certo punto si separano dalle pongine, che sono gli orangi praticamente, 6 milioni e mezzo di anni fa. Dopo un po' si separano dai gorilla e dopo un po' si separano dagli scimpanzé, che sono i panda. Gorillini e panda, gorillini vuol dire ominini, gorillini, eccetera. Allora, questa più o meno è una linea, no? Allora, quindi, ominidi all'inizio. A un certo punto da questi ominidi si separano, non c'è una linea qua perché non è chiarissimo come sia, comunque si separa il genere che è più distante da noi, fra le quattro grandi specie che sono gli oranghi. Poi a un certo punto si separano i gorilla, che sono quelli un po' più vicini, e danno luogo ai gorilla, poi l'ultima separazione è tra panne e homo, cioè tra scimpanzé, il bonobo, il panto con la dita con il scimpanzé comune, e poi homo sapiens. Questa è la varia cosina, nella linea finale abbiamo, questi sono generi, generi, pongo, gorilla, pan, homo, sono quattro generi. Queste sono le specie. Delle specie homo, di estinte, hanno la crocetta vicino, ce n'è già parecchie, Homo habilis, Homo ergaster, Homo floresiensis, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis. Qui Homo erectus non c'è più perché praticamente è ergaster, come... più gli ardipitechi e gli australopitechi e i parantropi che venivano anche prima, cioè qui siamo grosso modo 4 milioni e mezzo di anni fa, qui siamo 1 milione e mezzo di anni fa, fino ad oggi, tutte, quindi diavolo, c'erano parecchie specie di Homo, non una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, però sono tutte estinte. Attenzione, quindi noi abbiamo nella famiglia degli ominidi, che è una super famiglia di primati, con 4 generi, abbiamo di questi quattro generi, il genere pongo, che sono gli oranghi, ha 2 specie, il pongo abelli, che è l'orango di Sumatra, e il pongo pigmeus, che è l'orango del Borneo. Non ce n'è altri, 2. Gorilla ce n'è 2 specie, pure di questi. Genere gorilla, specie gorilla, il gorilla occidentale, e il gorilla beringhei, il gorilla orientale. Anche di pan ce n'è 2. Il pan troglodite, sono scimpanzé comune, e il pan paniscus, che è il bonomo. Di homo c'è solo Homo sapiens. È normale una situazione del genere? Nelle specie animali? È normale che in una famiglia... Poi ce n'è un sacco, prima sono tutte estinte, non ce n'è più adesso. È normale che ci siano così poche specie per generi? 2, 2, 2, 1. No, ci dicono gli studiosi che non è affatto normale. Il caso di specie, il caso di generi nel regno animale, dotati solo di due specie, o addirittura di una sola come Homo, è rarissimo. Rappresenta poco più dell'1% delle specie conosciute. È un'eccezione, non è una regola. Addirittura non esiste praticamente nessun'altra specie animale come Homo in cui ci sia un solo genere e una sola specie. Ce n'è due in pochissimi casi, l'1%, meno dell'1%. Se ci chiediamo, ma da che cosa deriva questa penuria, questa povertà di specie per generi, da qual è il meccanismo attraverso il quale si è? Vediamo che nel caso dell'uomo, ma in parte anche nel caso degli altri, nel caso dell'uomo però, nel caso di Homo, la ragione è molto semplice. Prima diciamo un'altra cosa. Statisticamente, gli studiosi di scienze naturali ci dicono che tutte le specie che stanno in una situazione del genere, cioè tutti i generi che hanno poche specie, due o meno per ogni genere, sono in genere prossimi all'estinzione. E perché? No, è molto semplice. Nel caso, perché la variabilità genetica di queste cose si è ristretta. Come diavolo nascono le specie nuove? Le specie nuove sono nient'altro che degli individui di specie vecchie che hanno accumulato un numero di mutazioni tali, favorevoli evidentemente per loro, cioè che gli hanno fatto bene, che gli hanno permesso di sopravvivere, ma sono mutazioni casuali. A un certo punto queste mutazioni sono diventate talmente tante che hanno alterato il DNA in modo tale da rendere l'individuo, quel nuovo individuo, molto diverso, diverso qualitativamente da quello che c'era prima, è nata una nuova specie. Attenzione, come può succedere questo? È collegato con un meccanismo geografico, certamente. Certo, perché sino a che una popolazione vive tutta in un territorio abbastanza grande, abbastanza vasto, questo accumulo di mutazioni diverse, questa varietà di geni diversi, all'interno di una relativamente grande popolazione si perde un po'. Non c'è il modo di concentrarli, perché ce n'è uno qua, uno là, uno su, uno giù. Quindi non è detto che automaticamente il fatto che quelle mutazioni siano più favorevoli di altre alla sopravvivenza creino delle condizioni per cui questi caratteri vengono realmente trasmessi alle generazioni, oppure vengono trasmessi, ma nel qual caso si tratta di individui, come dire, isolati, no? Che non possono dare origine, perché si perdono, annacquano, no? Sono dispersi dentro una cordata. Quindi qual è il meccanismo geografico per il quale questa congiuntura favorevole di mutazioni casuali dia davvero origine a una specie nuova? È il caso in cui, per una serie di strani motivi, un terremoto, una roba, eccetera, ci sia una più o meno ristretta area geografica in cui questi individui si trovano confinati. Se questi individui della vecchia specie si trovano confinati in un'area geografica specifica, abbastanza piccola, relativamente piccola, nella quale qui e c'è presente all'interno di questo gruppo un numero sufficiente, magari non ancora maggioritario, ma sufficiente, di individui portatori di queste mutazioni favorevoli, all'interno di un piccolo gruppo questi individui hanno una possibilità di trasmettere il proprio DNA molto molto maggiore che non in un gruppo più largo, intanto perché si incrociano sempre, è più probabile che si incrocino con individui che hanno anch'essi quella, come dire, mutazione. Se stanno in un gruppo vasto, è meno probabile che un individuo che ha quella mutazione si incroci con uno che ha quella stessa mutazione, e quindi quella mutazione tende a perdersi, se il gruppo è troppo vasto. Quindi, una delle condizioni per la speciazione, si chiama, questo è il processo di speciazione, la formazione di nuove specie, uno dei meccanismi per la formazione di nuove specie è che i candidati possibili alla formazione di nuove specie si trovino all'interno di una area, cioè siano in una situazione, si dice, di confinamento geografico. Se non c'è il confinamento geografico è del tutto improbabile che una nuova specie si formi. Adesso basta, ci dovresti essere da solo, perché basta fare un passo. Homo sapiens sarà una situazione di confinamento geografico, appunto. Quindi essendosi espanso ovunque, essendosi espanso ovunque, non ci sarà più speciazione. Homo sapiens è l'ultima specie del genere Homo, non ce ne saranno più dopo. Tutte queste qua si sono formate perché in periodi precedenti, da 2 milioni, 1 milione, 500 mila anni fa, c'era questa capacità. I gruppi erano molto piccoli. Le mutazioni che hanno dato origine all'emergere di Homo habilis dagli australopitechi prima, di Homo ergaster da Homo habilis, tutti e due, poi il Floresiens, tutti questi si formavano perché erano individui dotati di caratteristiche nuove, chiusi entro ambienti relativamente piccoli. Stai lì alcune decine di migliaia d'anni e esce la specie nuova, a poco esce la specie nuova. Ma come fa l'uomo ora a far uscire una specie nuova? Ma da prima della globalizzazione, sì, ma comunque con la globalizzazione, certo, siamo in tutto il mondo, giriamo in tutto il mondo, ci facciamo l'amore con chi ci piace, scopriamo con chi ci pare, andiamo, i geni si mescolano in continuazione, ci sarà sicuramente dentro Homo sapiens qualcuno che ha qualche mutazione casuale ma più, come dire, favorevole, ma è destinato a perdersi, perché una zona piccola vuol dire anche soltanto l'Italia, anche soltanto le Alpi, che ne so. Cioè c'è un gruppo di persone. Perché hanno pagato così tanto il DNA degli islandesi? Sai perché? Sai che gli hanno comprato il DNA 20 anni fa, gli hanno 15 anni fa, gli hanno comprato il DNA, hanno fatto gli studi della Madonna. Perché è così prezioso il DNA degli islandesi? Pensaci un po'. Perché Erano sempre lì perché l'Islanda è uno dei pochi casi di relativo isolamento prima del Novecento, fra il 1300 quando sono andati e il 1800 avanzato, gli islandesi hanno sempre scopato tra loro, si sono sempre accoppiati tra loro, non c'è stato un grande rimescolamento, quindi hanno un DNA per certi versi purissimo, sono scandinavi, molto più scandinavi dei norvegesi, degli svedesi, no? E dei finlandesi, che sono poi un'altra cosa. Ma a parte che nel Novecento l'Islanda ha cominciato, Björk non è così tanto, cioè, perché è andata in giro, ha fatto l'amore con un sacco di con Matthew Barney, con un sacco di altri, con quelli che con Matthew Barney, chissà che cosa è uscito, ma non fatemi dire nulla su Matthew Barney che potrebbero farmi causa poi. Capisci, non ci sono più nel comportamento, nella specie umana attuale, le condizioni per dare origine a una nuova specie. Ce n'è bisogno? No, non sappiamo se ce n'è bisogno o no, però di fatto possiamo dire che Homo sapiens è con grande probabilità il terminale. Ora, noi sappiamo che tutte le specie nascono e muoiono, tutte. Certamente non possiamo sapere quando si estinguerà Homo sapiens, si estinguerà forse tra 100.000, 200.000, 1 milione di anni, insomma, magari andiamo avanti, questo non lo può dire nessuno e non c'è scritto su questo libro. Ma, come dire, essere condannati all'estinzione dal nostro punto di vista, significa esaurirsi prima o poi come specie senza dare origine a specie nuove. I dinosauri si sono estinti, ma hanno dato vita agli uccelli, hanno dato vita a un sacco di specie, come dire, successive. I dinosauri è un'intera famiglia animale che si è estinta e ci ha messo più di un milione di anni per estinguersi, ma insomma, quindi noi forse ci metteremo. Allora, estinzione non vuol dire che dall'oggi al domani ovviamente noi saltiamo, cioè non ce ne... Però di fatto siamo una specie terminale, cioè non abbiamo storia futura. Mentre tutte le altre, mentre le specie in condizioni diverse da queste hanno, non loro, non gliene frega nulla come oggi, insomma, ma diciamo obiettivamente c'è questa prospettiva, beh, queste specie si estingueranno, però avranno messo in moto un meccanismo per cui da questo dà origine a una nuova specie. Allora, ci siamo adesso? Mm-hmm. Ecco perché, in modo un po' così loro dicono. Adesso, non l'ho portato con me, accidenti, ma mi fa bene a buttarlo, insomma, lo possiamo ricavare da qua. Una cosa di questo tipo, in realtà, l'aveva già detta più di un secolo fa, Friedrich Nietzsche. In una serie di argomentazioni in Umano troppo umano, o addirittura in Aurora, in varie opere di Nietzsche c'è questa cosa. Nietzsche dice, non proprio questa cosa, però dice una cosa simile, dice la sete di conoscenza è esiziale per l'uomo, è una condanna per l'uomo, lo porta alla estinzione. Non è propriamente come dire il linguaggio, però è molto simile. Cioè, il testo, per esempio, un testo possibile preso in Aurora è questo. Dice Nietzsche, in noi la conoscenza si è mutata nella passione che non teme nessun sacrificio e in fondo di nulla ha paura se non del suo proprio estinguersi. Forse possa anche darsi che l'umanità perisca per questa passione della conoscenza. E infine, se l'umanità non trova per una passione la sua distruzione, la troverà per una sua debolezza. Che cosa si preferisce? E questo è il problema principale. Vogliamo per essa un epilogo nel fuoco e nella luce, oppure nella polvere? Nietzsche ha insistito spesso nella sua filosofia, che è una filosofia molto particolare, anche nel modo di esprimerla, eccetera, è molto polemica, è molto appassionata comunque sempre. Nietzsche ha sempre fatto una polemica contro la filosofia che era troppo astratta, cioè che si staccava dalla vita, no? E insisteva sempre sul fatto che la filosofia doveva stare più attaccata, doveva, come dire, che la conoscenza è, fin da quando era giovane, una delle prime opere che ha scritto dopo la nascita della tragedia si chiama sull'utilità e il danno dello studio della storia per la vita, in cui sostiene che noi studiamo troppa storia e che l'eccessivo passato ci preme sulle spalle e ci impedisce di essere abbastanza, come dire, progettuali, abbastanza, siamo dinamici verso il futuro. E noi italiani lo sappiamo bene, perché siamo un popolo che ha più passato che non, come dire, presente o forse che non futuro. Ci dicono che abbiamo quasi la metà concentrata in un paesino piccolissimo come il nostro, dei beni culturali di tutta la terra, sta concentrata in Italia, perché per una serie di motivi si è distrutto qualcosa, sì, ma no? C'è stato dall'impero romano in poi, c'è stato prima l'impero romano, poi il cristianesimo, che sono nati qua, quindi insomma no? Si sono accumulati un sacco di materiali. Ora, da un certo punto di vista, Nietzsche non ha torto, credo, cioè quando la conoscenza degli esseri umani diventa troppo astratta, quando ci stacchiamo troppo dall'astrazione, allora torniamo, per questo c'entra con il discorso del linguaggio. Il linguaggio è stato, il linguaggio è stato, abbiamo detto, molto probabilmente, se non l'elemento principale, ma uno degli elementi principali di sviluppo della specie umana su questo pianeta. Cioè, una garanzia del nostro successo evolutivo, del fatto che siamo nati e che siamo sopravvissuti anche per breve tempo. Ci siamo impiantati come specie da 200-250.000 anni, esistiamo come una specie, come dire, specifica. Abbiamo visto che una delle ragioni di questo successo evolutivo sta nel carattere eccessivo, ridondante, come dire, superfluo del linguaggio, cioè detto in termini più terra terra, che il linguaggio ci consente di fare molte più cose di quelle che sono immediatamente utili. D'altra parte ci consente di fare le cose utili proprio perché fa questo. Ma se ci pensi bene, dentro a questa cosa c'è già un meccanismo di degenerazione. Perché essere in grado di costruire dei mondi con la sola fantasia, con la sola immaginazione, essere in grado di parlare di ciò che non esiste, essere in grado di parlare dell'inesistente, essere in grado di costruire una filosofia, di parlare dell'essere e di parlare del nulla, di parlare di ciò che c'è e di ciò che non c'è, non è qualcosa che ci allontana, che tende ad allontanarci, che tende ad indebolire i nostri legami con le nostre origini animali? E non è in un maggior legame con le nostre origini biologiche e animali che sta una delle garanzie che noi abbiamo i piedi ben piantati per terra e che siamo in grado di svilupparci all'interno di un ambiente di questo genere? Io credo che Nietzsche avesse qualche ragione nel polemizzare contro il carattere troppo astratto della conoscenza. Questo non c'è scritto in questo libro e ce lo aggiungo io, ma nel linguaggio c'è insito, proprio in ciò che lo rende ricco e proprio in ciò che lo rende utile, però c'è contemporaneamente un elemento che indebolisce il nostro rapporto con la vita. Ma facendo degli esempi, ma parliamo anche un po' del fatto che si sta virtualizzando tutto, computer. Non darei la colpa tanto al computer. Se se n'era accorto Nietzsche, che veniva prima dell'epoca del computer, certo, ma guarda che l'invenzione del computer, tutte queste robe qua, non sono nient'altro, sono al fondo, che cosa sono? Sono un trionfo del linguaggio, attraverso il linguaggio siamo arrivati a costruire, certo, con il computer abbiamo dovuto inventarci dei linguaggi artificiali, certo, li abbiamo inventati noi, li hanno inventati gli esseri umani, i linguaggi di programmazione. Ma è una sorta di ipertrofia del linguaggio il computer, non è altro che questo. Quindi vuol dire che al fondo, esattamente come quando Nietzsche si spiega che l'origine della decadenza sta addirittura nell'antica Grecia, quando Sofocle, con la nascita della filosofia, con la morte del mito e con la nascita della filosofia, già nel pensiero critico c'è una, no? C'è una piccola, come dire, c'è una premonizione di questo possibile futuro, di questo, diciamo, desiderio. Perché che cosa vuol dire fare della critica? Vuol dire, e possiamo farlo solo perché parliamo, solo perché abbiamo il linguaggio, vuol dire staccarsi dalle cose che abbiamo fatto, guardarle da lontano, analizzarle, dire qui ho fatto così, lì ho fatto così, qui ho fatto cos'ha, però ho fatto bene, ho fatto male, no? Scomporre una cosa nei suoi elementi, un avvenimento, un qualsiasi cosa, un concetto nei suoi avvenimenti, e quindi non mantenerne più il suo aspetto vivo. Criticare una cosa vuol dire in qualche modo parlare di una cosa morta. Quando qualcosa viene criticata, in qualche maniera è morto, da un certo punto di vista. È una cosa sottile, mi rendo conto che può sembrare sconvolgente, io ci ho messo anni prima di maturare una cosa così, non l'avrei mai detto né 10 anni fa né anche 5 anni fa. Però direi che a poco sono arrivato a questa conclusione. Quando ho letto questo libro ho detto, accidenti, allora da un altro punto di vista, perché lui me ne parla da un punto di vista puramente, no, evolutivo, biologico, di rapporto con la specie, però mi dice una cosa indubitabile. Mi dice: guardate che i generi monospecie non ci sono stati cristi sinora, prima o poi tutti si sono estinti, più o meno rapidamente, da quello che noi conosciamo. Qua parla di adattabilità, che è il gruppo di linguaggio, e qui si parla invece di interesse sempre più, concentrarsi sull'astratto. No, è simile, è la stessa cosa. Qua si parla di adattabilità, però si parla di fine della possibilità di confinamento. Il legame di una specie con il suo ambiente naturale, il legame di una specie con il suo territorio, vuol dire è una garanzia, come dire, di rapporto, certamente limitante, eh? Abbiamo detto, la zebra non può vivere fuori della, come dire, savana, però finché vive dentro la savana vuol dire che è in grado di trarre da quella savana le cose migliori, sa, ci vive bene lì, è in grado, c'è un bel rapporto, c'ha un bel rapporto con il suo ambiente. Poi certo, paga il prezzo che se la sposta di ambiente muore. L'essere umano non ce l'ha più con gli ambienti un rapporto di questo tipo, perché ogni ambiente gli è indifferente, perché va al polo nord, si costruisce un iglu e vive dentro l'iglu, si mette le pellicce di foca e vive, va all'equatore, si toglie tutto, si mette un guadagno di banane, va in quello che lei già conosce e fa quelle cose, cioè capisce che cosa voglio dire. Anche nella, da un certo punto di vista, l'estensione della specie umana su tutto il pianeta è esattamente l'analogo della nostra grande capacità di astrazione, che è bella, non dico che è una cosa brutta di per sé, dico è una cosa affascinante, utile, eccetera, eccetera, ma staccarsi, cioè non essere, come dire, capaci, essere indifferenti all'ambiente in cui si vive, perché tanto mi costruirò io l'ambiente artificiale, artificializzerò io l'ambiente, mi farò io una casa, mi farò io il frigorifero quando non fa freddo, mi farò io il riscaldamento quando fa freddo, mi farò io il condizionatore quando fa troppo caldo. E accidenti, tutte queste cose non sono nient'altro, sono esattamente il correlato della nostra capacità di astrarre, non potremmo farle se non fossimo degli esseri astratti, perché siamo così capaci di astrarre addirittura dalle condizioni di vita concrete, dalle condizioni di vita, dal modo in cui, cioè, ci vestiamo, ma tutto questo, adesso no, ma insomma, quale altro animale si veste? Il fatto di vestirsi implica, oltre a tutte le cose simboliche, ma anche una cosa materiale, cioè che è il primo strumento che ci consente di vivere in tanti ambienti diversi, no? Perché se fa freddo mi metto una pelliccia di un bel animale e con il riscaldo è il vestito che mi consente di molto molto bene. Gli uomini prima dell'invenzione dei vestiti d'inverno facevano ben poche cose, non andavano in letargo come gli orsi, ma stavano chiusi dentro la caverna, no? Quasi, perché tanto, voglio dire, animali in giro ce n'è pochi, frutta non ce n'è, eccetera, cosa devono fare? Quindi magari non andavano in, come dire, letargo, ma è ovvio che la gran parte dell'attività degli esseri umani in condizioni, virgolette, naturali, di rapporto alla natura, è concentrata nei mesi caldi, nella, insomma, primavera, estate, autunno, insomma. Ah, una volta che ti costruisci l'ambiente, i vestiti, eccetera, fai quello che ti pare anche d'inverno, no? Facciamo anche lezione d'inverno, anche se fa un freddo cane in questa cosa, ma insomma. Allora, ti convince questo possibile parallelo tra l'espansione sul mondo e la capitalizzazione? Sono due aspetti della stessa, e ahimè, sono tutti e due collegati con il linguaggio. Quindi diventeremo sempre più omogenei. Omogenei forse no, però sempre più astratti sì. Omogenei forse no, perché avremo dei modi per allora, questa è una previsione talmente sul lungo periodo che ci dice poco sull'immediato, evidentemente, però è comunque, va, secondo me va tenuta presente, perché è una cosa un po' scioccante, ma che non siamo. Facciamo una pausa? Va bene. Allora, io ho finito sul linguaggio, mo parliamo di. Ma la mia vita non è come prima. Adesso che sai che ti estinguerai. Ma dai, ma te, guarda, io e te ce la facciamo, merda. Anche tu ce la fai. Ma cosa, perché, cos'è, volevi avere dei discendenti fin quando? Che cazzo è? Certo, cioè, adesso, insomma, certo, tu sei destinata... Quindi, l'unica possibilità sono gli alieni, quindi... Possiamo sperare in loro, sì. Dobbiamo pensare su scala più universale, certo, anche pianeti. Certo. Altri pianeti, altri. D'altra parte adesso dice che la... hanno rifatto un po' di calcoli, un po' di conti, ho letto, sui modelli degli altri pianeti, con le nuove cose del... c'è questo... come si chiama? Questo telescopio Hubble. Questo telescopio Hubble che hanno messo in orbita 40 anni fa, 30 anni fa, non ricordo, e pare che tanto questo dura poco, entro 5 anni si dovrà chiudere, questo miracolosamente è 40 anni che è di nostro, anche lì l'ho anche imparato, eccetera. E sta mandando un sacco di dati in più, eccetera, eccetera. Allora pare che si sta rovesciando l'idea. Fermiamo qua perché siamo in pausa.